America 24 di Mario Platero. The numbers went bad. People should be very careful about jumping up and down. The numbers really are not good, no matter how you cut it. We're out of sync between Washington and America. Buongiorno da New York, Mario Platero, benvenuti ad America 24. Si apre un'altra settimana, come avete sentito da Pat Cadell, analista finanziario e politologo americano. I numeri della disoccupazione che abbiamo avuto la settimana scorsa non necessariamente riflettono condizioni solide per l'economia americana. Cos'è successo? Il tasso di disoccupazione è caduto al 9,7%, ha colto un po' tutti di sorpresa. È un tasso sostenibile? Beh, è questo che dice Pat Cadell. Probabilmente no. Il risultato? La borsa resta molto nervosa. Venerdì abbiamo avuto una giornata di altalena straordinaria, siamo scesi addirittura a 9.835 con l'indice Dow Jones e poi c'è stato un balzo di 160 punti, alla fine grande sospiro di sollievo sulla campanella pochi minuti prima della chiusura, un rally ha riportato l'indice al rialzo al di sopra di quota 10.010 e oggi si arriverà alla resa dei conti, nel senso che la settimana dovrà fare le sue valutazioni non soltanto su quello che è successo la settimana scorsa, ma su quello che succederà questa settimana. Abbiamo vendite all'ingrosso in attesa per domani, abbiamo un disavanzo commerciale che sarà sicuramente brutto per mercoledì e poi avremo il dato importante di giovedì, le vendite al dettaglio e quindi il sentimento e la fiducia dei consumatori. Ecco, i mercati restano incerti come non lo sono mai stati negli ultimi mesi. L'indice della volatilità di Chicago, il VIX, chiamato l'indice della paura, è addirittura aumentato del 22% e quindi si apre in un contesto di volatilità questa settimana che sarà di nuovo agitata, anche perché in Europa i problemi non si sono risolti, perché i credit default swap, il costo delle polizze di assicurazione contro i debiti, contro il rischio di fallimento di debiti, anche debiti sovrani, sono aumentati addirittura del 10-15%. Un dollaro che resta forte, si è rafforzato di nuovo nei confronti dell'euro, addirittura stiamo partendo da livelli da 1,37 questa settimana, dunque non aiuterà le esportazioni americane. So what you're dealing with is an adjustment of the base and fuzzy math. Un aggiustamento della base e una matematica un po' confusa. Questo è il commento di Alan Grisani ai bonus che si sono concessi i grandi banchieri americani, bonus molto contenuti a sorpresa, soprattutto per Lloyd Blankfein di Goldman Sachs, e comunque sono pur sempre 9 milioni di dollari, cifra altissima dal punto di vista della maggioranza di noi, cifra irrisoria se pensiamo che Times diceva che avrebbe preso 100 milioni di dollari. Anche Jamie Dimon, banchiere di JP Morgan, ha avuto il suo bonus, 17 milioni di dollari. Nessuno incasserà in contanti, saranno soltanto in azioni. Questa dovrebbe essere la nuova morale di Wall Street. Dunque la borsa e New York si preparano a un'altra settimana di fuoco e noi lasciamo i mercati, il macro globale, per passare all'individuo, alla relazione di un individuo con New York, alla sua reazione a una tragedia che gli ha cambiato la vita. Sentiamo Hugo de Montalembert. Sono arrivato in America per un lavoro dell'estate, io ero un studente francese, sono arrivato in Vermont dove ho fatto il professore di cavalli, d'equitazione, come si dice, sì, in italiano? Equitazione. 70 cavalli, 300 girls. Ho pensato che il sogno americano non era un sogno ma una realtà. Il sogno americano di Hugo de Montalembert, uno scrittore, un cineasta, fotografo, comincia dunque molto bene nel 68 con 300 ragazze nel Vermont. Dopo tre mesi è a New York, colpito dalle luci, dall'energia, dalla musica nuova, dalla coscienza politica dei giovani, l'atmosfera borghese della Francia di De Gaulle è lontana e decide di restare. Trova lavoro al bar delle Nazioni Unite. Dopo 10 anni il dramma viene accecato. Tornava a casa, viene attaccato da due criminali, reagisce con i ferri del camino contro il più forte che aveva un coltello. L'altro, che mi sembrava non pericoloso, infatti aveva un'arma del ghetto, che come una SID, però è una base. Un acido di base, sì. E mi ha buttato questo liquido in faccia. ho gridato così violentemente che hanno avuto paura e sono usciti. Ho saltato sotto la doccia, ho salvato mia faccia, però non le occhi. In questi giorni Montalembert, che è tornato nel frattempo a Parigi, è invece a New York per presentare il suo nuovo libro Invisible, Invisibile, la storia dei 20 anni in cui ha ricercato e ritrovato il gusto del vivere dopo l'angoscia nel letto dell'ospedale mentre diventava cieco. La vita era più forte che tutto. Ho ricominciato a viaggiare solo, per esempio in India. Tutta la mia roba, la mia borsa, il mio soldi, il passaporto, tutto in un momento was rubato. E ho pensato, beh, a questo punto devo ritornare a New York. Soltanto che dopo un'ora, questa borsa, il mio soldi, il passaporto, tutto è stato ritornato a me con i soldi cambiati. Quando ho voluto ringraziare questa gente, sono mendicanti che vivono nell'aeroporto. Ma un viaggio che comincia per l'aiuto delle mendicanti dell'aeroporto di New Delhi andrà benissimo. E infatti ho viaggiato in India fino all'Himalaya solo, incontrando un mercante di frutti secchi o un filosofo che voleva discutere la filosofia occidentale, un monaco che voleva andare a comprare qualcosa per il monastero nella piccola città vicina. Non ho mai avuto guai. Adesso per me è difficile di pensare che questo viaggio che io dicevo nell'Himalaya l'ho fatto cieco, perché io vedo le montagne, vedo le valli, vedo la gente, vedo tutto. E le immagini sono dentro di me. Certo, la New York delle angosce dei mercati e dei bonus dei banchieri sembra molto lontana quando ascoltiamo una storia di questo genere. Dunque chiediamo come ultima domanda a Hugo de Montalembert: come vive e sente oggi questa straordinaria città? New York, quando ritorno a New York questi viaggi, per esempio, per me è come una vecchia pantofola. Pantofola, sì. Io la conosco così bene. E l'amo, infatti. Anche con questo che è successo. Non importa. Ci sono mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive, sì, tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il nuovo sito che vi porterà sulla sponda americana. E con alcune, Anne Hathaway ha dovuto restituire i gioielli. La protagonista del Diavolo Veste Prada ha infatti consegnato alle autorità i gioielli che le aveva regalato l'ex fidanzato italiano Raffaello Foglieri, il truffatore che si spacciava come inviato del Vaticano in America e che sta scontando una condanna per truffa. La Carolina del Sud ha una nuova legge: tutti i terroristi dovranno registrarsi su un modulo apposito. Per ora non si è presentato nessuno. Ed eccoci alla canzone del giorno. 25 anni dopo torna We Are The World in una nuova versione di gruppo per raccogliere fondi a favore di Haiti. Il remake debutterà il 12 febbraio in coincidenza con i Giochi Olimpici di Vancouver. Fra gli artisti, Céline Dion canterà il pezzo più difficile. La parte che fu di Michael Jackson sarà interpretata dalla sorella Janet. Ci saranno anche i figli del re del pop, Paris, Prince, Blanc e Johnson, leggeranno una poesia scritta dalla poetessa americana Maya Angelou. E dunque lasciamoci con We Are The World nella sua versione originale. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying, oh, when it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!